Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 6 minuti. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Focus Economia che oggi durerà da oggi e per tutto agosto durerà un'ora solamente. Ci fermeremo alle 18. Partiamo dai mercati. Mercati che sono stati confortati ancora una volta da parole in attesa degli atti che dovrebbero arrivare giovedì dalla Banca Centrale Europea. Parole in questo caso in particolare di Berlino, che dice che non vede ragioni per criticare la BCE in relazione ai ventilati nuovi acquisti di bond in paesi in crisi. Quindi un segnale positivo che arriva per una volta dalla Germania, mentre è in corso l'incontro tra l'altro tra il ministro tedesco Schäuble e il suo omologo americano Geithner. È proprio di spread che parleremo all'inizio di questa puntata. Ritorneremo su un tema che abbiamo toccato in parte trattando la vicenda Fiat la settimana scorsa, lo scontro tra Fiat e Volkswagen. Abbiamo parlato dell'effetto spread sulle aziende, approfondiremo questo anche in seguito a un bel pezzo realizzato dal collega Moria Longo che era sul Sole 24 Ore ieri in edicola, che trovate tranquillamente online in questi giorni. Effetto spread nel senso che le aziende italiane si finanziano chiaramente con rendimenti più alti rispetto alle aziende tedesche. C'è qualche esempio eclatante sulle grandi aziende. Immaginate che cosa può succedere per esempio nelle medie imprese della meccanica, settore tradizionale di nostro export e settore nel quale tradizionalmente abbiamo un concorrente come la Germania. Toccheremo questo e sempre in tema di mercati parleremo delle quotazioni delle materie prime agricole. L'abbiamo trattato nelle settimane scorse, nei giorni scorsi. La questione è la siccità negli Stati Uniti, ma non solo, anche nel Kazakistan, altro grande produttore, mais a livelli superiori a quelli del 2008, questa volta però meno per la speculazione, quindi è più per fattori climatici, e però appunto prezzi molto alti e grossi rischi che sono connessi, tra cui l'aumento del prezzo delle carni. E poi torneremo sull'Ilva di Taranto. Questa mattina c'è stata un'assemblea, una grande assemblea organizzata da Confindustria Taranto. Ne sentiremo il presidente perché oggi è scattato, tra l'altro è iniziato il processo di sequestro degli impianti. Toccheremo anche il tema della spending review. Prima di tutto le notizie in breve. Vi ho detto che i mercati vanno bene, ma non vi ho detto come. Il FTSE MIB guadagna il 2,76%, il FTSE All-Share il 2,31%, positiva il resto d'Europa, euro a quota 1,2242 contro dollaro. L'oro aperto in lieve calo in Asia a 1618,60 dollari l'oncia, meno 0,3%. Per quanto riguarda il petrolio, siamo in rialzo, in calo dello 0,02% per quanto riguarda il WTI, il petrolio quotato a New York, sopra i 90 dollari al barile, a 90,11. Per quanto riguarda il Brent, quello quotato a Londra, in calo dello 0,21 a 106,2 dollari al barile. Abbiamo parlato molto di scandali finanziari. C'è chi la risolve in questo modo. In Iran 4 persone sono state condannate a morte nel processo intentato sul più grave scandalo finanziario della storia del paese. La procura ha precisato che oltre alle 4 condanne a morte sono state emesse 2 condanne all'ergastolo e pene carcerarie fino a un massimo di 25 anni di reclusione. Identità degli imputati non resa nota, però si parla di una frode ai danni di banche iraniane stimata in 2,6 miliardi di dollari. E veniamo all'economia internazionale con il Wall Street Journal, che parla di una Fed che si muove verso nuove misure non convenzionali per aiutare l'economia. La Banca Centrale Americana già mercoledì potrebbe annunciare nuovi stimoli in forma di un nuovo round di allentamento monetario, ovvero l'acquisto di titoli di Stato e titoli legati ai mutui. Nel frattempo il segretario al Tesoro americano Geithner è in Europa e ha incontrato tra l'altro appunto il ministro dell'economia tedesco Wolfgang Schäuble. Stanno uscendo in questi minuti le loro dichiarazioni, hanno espresso fiducia nelle misure varate dall'Eurozona per riformarsi e arrivare in ultima istanza ad una maggiore integrazione tra i Paesi membri. Due ministri hanno anche parlato degli sforzi considerevoli varati in questi mesi, messi in atto in questi mesi dall'Italia e dalla Spagna. Si è discusso tra l'altro anche del ruolo della Banca Centrale Europea. Vedremo cosa succederà. Giovedì è la riunione del board della BCE, del direttivo della Banca Centrale Europea. Nel frattempo il Tesoro spagnolo dice ancora una volta che la Spagna non chiederà aiuti al Fondo Salva Stati Europeo perché acquisti il debito. Questo non è successo e posso assicurare che non succederà, ha detto in questo caso il segretario generale al Tesoro spagnolo Íñigo Fernández de Mesa. Bene l'asta dei BTP, oggi tassi in calo, il Tesoro ha venduto 5,48 miliardi di euro di BTP a 5-10 anni contro un target massimo di 5 miliardi e mezzo, tasso sul decennale in calo sotto il 6%, buona domanda. Sulla scadenza a 10 anni il rendimento medio è sceso al 5,96% dal 6,19 di fine giugno e sui 5 anni al 5,29 dal 5,84 del mese scorso. Di Berlino e dell'ok agli acquisti di bond abbiamo detto, aggiunge la Germania che l'acquisto di bond da parte della Banca Centrale Europea non contraddice i trattati. Bene così. La Germania, sempre dato dalla Germania, tra il 2010 e il 2011 si sono creati 790.000 posti di lavoro. 610.000 di queste assunzioni a tempo pieno e indeterminato, direttamente dalle aziende, non tramite agenzie interinali. E i salari definiti dai contratti collettivi sono cresciuti ad aprile su base annua del 2,2%, il dato più alto dal gennaio del 2010, un altro mondo. Infine, la spending review, poi ci torneremo più avanti, dice il sottosegretario Polillo, che entro oggi chiudiamo, arriveranno modifiche al maxi emendamento sulla sanità, mentre sul fronte del lavoro pubblico della pubblica amministrazione CGL e UIL hanno confermato lo sciopero, mentre la CISL ha ribadito il suo no e chiesto al ministro della pubblica amministrazione Patroni Griffi un tavolo su spending review a settembre. Iniziamo dal primo tema di questa giornata, lo spread e le aziende. Allora, lo spread tra BTP e Bund è sceso in giornata sotto i 460 punti, vi abbiamo detto come sono andate le cose dal lato del rendimento dei titoli di Stato, 349-238-6666 per i vostri SMS. Moria Longo del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Moria, abbiamo accennato nei giorni scorsi alla possibilità che offre per esempio Volkswagen anche banalmente ai suoi clienti per finanziarsi quando acquistano una macchina grazie al costo al quale ottiene il denaro, che è molto basso. Ci sono però anche altri esempi da fare. Sì, assolutamente. Il vero problema degli spread non è solo per gli stati, per quanto l'Italia si finanzia rispetto del costo sopportato all'Italia rispetto al costo sopportato dalla Germania, ma anche dalla Finlandia, dall'Olanda e dall'Austria. Ma il vero problema sta nell'industria, perché lo Stato può anche tirare avanti, anche se è sempre più difficile rifinanziare il proprio debito. L'industria no, perché nel frattempo più si aspetta, più il proprio tessuto imprenditoriale italiano, industriale italiano muore. Allora io sul Sole 24 Ore l'altro giorno ho fatto, di domenica, ho fatto alcuni esempi. Per esempio ho preso il caso dell'Enel e RWE. Entrambe sono società energetiche, entrambe hanno lo stesso identico rating da parte di Standard & Poor's e di Fitch, quindi la solidità industriale è identica, almeno per quanto riguarda il giudizio di due agenzie discusse come Standard & Poor's e Fitch, però comunque questo è il loro giudizio, mentre Moody's ha una differenza minima tra le due società. Eppure Enel è italiana e quindi quando si finanzia a tassi a uno spread 9 volte più alto rispetto a quello di RWE. Io ho preso i dati sul mercato secondario, un bond, un prezzo obbligazionario dell'Enel attualmente ha uno spread di 390 punti base sui tassi interbancari, un bond di RWE ha uno spread di 45 punti base. Allora è ovvio che quando un'impresa si finanzia a un tasso così alto rispetto a un'altra, la competizione è completamente falsata. Ecco, si potrebbe obiettare, Moria, che è vero che c'è l'elemento spread, probabilmente ci sono anche degli elementi congiunturali, innanzitutto, nel senso che l'Enel agisce in un mercato che è in piena recessione, evidentemente, e RWE no, anzi, in certo, un paese che cresce. Mi verrebbe da chiedere se nasce prima l'uovo o la gallina, cioè nasce prima la recessione dello spread o prima lo spread della recessione, o entrambi sono cause con casa l'uno dell'altro, perché è vero che in questo momento l'Italia è in forte è in recessione, oggi sono le previsioni di Standard & Poor's, per citare la stessa agenzia di rating, sono terrificanti, -2% di PIL di recessione quest'anno, però è anche vero che una delle cause, una, non ovviamente tutte, ma una delle cause della nostra sofferenza attuale è proprio lo spread, che rende impossibile per le imprese finanziarsi, rende impossibile per le banche reperire finanziamenti e quindi erogarlo alla clientela. A differenza, per esempio, delle banche, delle imprese tedesche che invece vivono in una sorta di mondo virtuale assolutamente positivo, per cui si finanziano a tassi zero e quindi possono fare politiche completamente molto più competitive. Detto questo, non significa che l'Italia soffre solo a causa dello spread, questo sia ben inteso, cioè il gap di competitività tra le nostre imprese e quelle tedesche ha mille altre motivazioni, il mercato del lavoro, la fiscalità e mille altri problemi strutturali dell'Italia. In Italia la classifica della Banca Mondiale sulla facilità di fare impresa mette l'Italia all'87° posto al mondo, quindi non è colpa dello spread soltanto, però lo spread ci sta dando, diciamo, il colpo finale, è quello che ci rende impossibili anche le manovre che dovremmo fare per risollevarci, per riconquistare credibilità. Per cui se un governo fa una manovra da 30 miliardi ma lo spread ti aumenta i tassi di interesse di 15 miliardi è facile fare il calcolo. Allora quello che sta accadendo è che questo mercato finanziario assolutamente bipolare in Europa, alcuni paesi sono a tassi zero, altri a tassi impossibili, sta creando degli effetti disastrosi proprio sul tessuto imprenditoriale. È un rischio di avvitamento. Un rischio di avvitamento, perché ovvio l'impresa che non ce la fa finanziarsi poi è costretta a ridurre la forza lavoro, a licenziare, e lo Stato deve aumentare le tasse, cosa che sta accadendo da noi, ma sta accadendo in Spagna, quindi la gente compra meno e quindi si avvita tutto. Per di più in un paese come il nostro, dove la fiscalità è il più alta al mondo, è facile immaginare che molte imprese preferiscano andare altrove, dove altri paesi che invece hanno una fiscalità agevolata. Faccio un caso, solo un esempio, l'Irlanda. L'Irlanda è un paese che è stato già salvato dall'Unione Europea, come la Grecia e il Portogallo. Eppure l'Irlanda, non si capisce bene come mai, lì hanno mantenuto questo grosso privilegio di una fiscalità per le aziende al 12,5%. È ovvio che questo attiri le imprese, è normale. Allora io mi domando, è giusto che in Europa abbiamo una moneta unica, una banca centrale unica, un'inflazione più o meno simile? È giusto che alcuni paesi facciano delle politiche anche fiscali e abbiano vantaggi di spread come in Germania o in Olanda o in Austria, che attirano le imprese, cioè ci facciamo concorrenza tra di noi, cioè in realtà abbiamo tutte le stesse armi per giocare, abbiamo una moneta unica, abbiamo una banca centrale unica, però ci facciamo concorrenza tra di noi. Ecco, questo è il vero problema dello spread, cioè va a uccidere l'economia di alcuni paesi a vantaggio di altri. Mi domando se questa cosa va avanti per anni, se dovesse andare avanti per anni, alla fine avremo un'Italia completamente spopolata dal punto di vista industriale, una Germania assolutamente, ma non solo Germania, Finlandia, Olanda e altri paesi assolutamente che attirano imprese. Mi domando a chi giova tutto ciò, dal momento in cui abbiamo creato una impalcatura unica, un'Europa unita per altri fini, non certo per farci distruggerci l'uno per l'altro. Chiaramente poi l'esempio dell'Irlanda è molto calzante, proprio perché è un paese sotto tutela e quindi probabilmente... Insomma, esattamente come lo è stata la Grecia, però non è stata costretta ad azioni fiscali così violente, almeno dal lato di quella famosa tassa sulle imprese, della quale tanto si è discusso e sulla quale oggettivamente l'Irlanda ha trattato con l'Unione Europea e evidentemente ha trattato bene, perché è riuscita ad ottenere, proprio basando il ragionamento su questioni di crescita, sulla necessità di non ammazzare il paese, a mantenere quella liquida. Non dimentichiamoci che l'Irlanda ha alle spalle la Gran Bretagna. Bretagna, che la Gran Bretagna non ha partecipato a nessun salvataggio tranne quello dell'Irlanda, ovviamente per motivi loro commerciali, di un legame storico, culturale, ma anche proprio industriale, per cui loro hanno le spalle forti dietro, e questo gli ha anche, forse anche questo gli ha permesso di mantenere questa tassazione agevolata. Però anche altri paesi fanno tassazioni agevolate, appunto, ripeto, noi non possiamo svalutare la lira, sì, perché non ce l'abbiamo, non possiamo tagliare i tassi più della Germania, però non attiriamo più nessuno. Chiaramente, allora, chiaramente. Scusami Moria, molto brevemente ci scrive un ascoltatore, perché so che poi devi scappare, ci scrive un ascoltatore, dice: smettiamola, le banche hanno preso i soldi dalla BCE allo 0,5, non li hanno dati alle aziende, hanno comprato titoli di Stato. C'è anche questo, è anche questo il motivo per il quale i finanziamenti sono a tassi, come dire, così alti. Sì, assolutamente. Anche qui la domanda da farsi se nasce prima l'uovo o la gallina. Nel senso che se si chiede alle banche, e questo è vero fino a un certo punto, ma in parte è vero che sono le imprese a chiedere minori finanziamenti. In un momento di grande incertezza, in cui non si sa quale sarà il futuro, in cui non c'è nessuna visibilità sui consumi, per esempio, le imprese investono meno, quindi chiedono anche meno finanziamenti. Primo punto, quindi il calo del finanziamento è dovuto proprio a una riduzione della domanda. Questa è una piccola parte della verità. L'altra parte della verità è che le banche italiane, ma anche quelle spagnole, hanno serie difficoltà, hanno paura di trovarsi a corto di fondi, perché già ci si sono trovate quando appunto poi la Banca Centrale Europea ha erogato quei soldi. In parte hanno comprato titoli di Stato, perché era anche questa la richiesta che gli veniva fatto, e poi perché ci traevano un grossissimo guadagno. In parte però si devono tenere questa liquidità perché hanno paura di trovarsi un giorno con le spalle scoperte. Quindi è proprio anche qui il clima, il clima di incertezza che rende proprio impossibile la ripartenza della macchina economica e anche della macchina del credito. Grazie a Moria Longo del Sole 24 Ore per essere stato con noi e per averci dato una mano a capire anche queste cose. Noi adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'Ilva. Sono arrivati nello stabilimento di Taranto e sono a colloquio con il presidente dell'Ilva, Bruno Ferrante, i custodi amministrativi nominati dal GIP di Taranto nell'ambito delle procedure appunto di sequestro dell'impianto siderurgico. Si tratta di tre custodi incaricati del sequestro dell'impianto e di uno che si occuperà del personale. L'incontro con Ferrante è cominciato intorno a mezzogiorno, a quanto pare ancora in corso. I sindacati hanno chiesto di essere ricevuti dal presidente dell'Ilva a conclusione della riunione. Tra l'altro, venerdì ci sarà il riesame sul sequestro della parte a caldo degli impianti Ilva di Taranto, e quindi venerdì sarà una giornata decisiva per capire veramente i destini dello stabilimento. Io saluto Vincenzo Cesario, che è presidente di Confindustria a Taranto. Buonasera Cesario. Buonasera. Che tra l'altro oggi ha riunito una grande assemblea anche per parlare, anche e soprattutto per parlare dell'Ilva. Io vorrei parlare con lei degli esiti dell'assemblea tra un attimo, però insomma ci siamo parlati prima della trasmissione e io ho capito che lei è la persona che finalmente ci può spiegare in maniera abbastanza chiara e semplice per i nostri ascoltatori, senza, ripeto, stare a fare distinzioni e ragionamenti sulla questione salute-lavoro, sullo scambio salute-lavoro, che è una falsa discussione, ecco, per come la vedo io. Tecnicamente, perché spegnere la parte a caldo degli stabilimenti Ilva vuol dire di fatto dare la morte all'impianto siderurgico di Taranto? Mi dia una mano a capire. È abbastanza facile. Gli impianti siderurgici, sia per la parte a caldo sia nella parte altiforniche, nella parte dei forni a batterie che servono appunto a preparare la materia prima per poi la realizzazione delle fusioni nella colata continua, è composta di materiale refrattario, per cui è destinata a rimanere, a permanere a temperature elevatissime. lo spegnimento di questi impianti, progressivo spegnimento di questi impianti, ne decreta irreversibilmente la morte, nel senso che bisogna ricostruire le batterie e per i forni, per gli altiforni la stessa cosa. Gli altiforni durano una media di circa 10 anni a campagna e dopodiché vengono in qualche modo, cioè vengono rifatti integralmente, però se ne rifà una alla volta, perché tenga presente, voglio dire, che non stiamo sempre parlando del forno di una pizzeria, ma parliamo del forno di un'acciaieria. Certo, questo spegnimento, mi scusi Presidente, questo spegnimento viene programmato addirittura anni prima, quando bisogna spegnere un altoforno. Sì, le fermate di altoforno normalmente vengono programmate 1 o 2 anni prima della fermata stessa, e mediamente una fermata d'altoforno dura qualche mese. Già per i lavori di revamping, di rifacimento e di ricostruzione parziale dell'altoforno. In questo caso, trattandosi poi di un impianto che comunque resta sempre in manutenzione, resta comunque in marcia, in questo caso la situazione sarebbe ulteriormente peggiorativa, perché è uno spegnimento sul quale nessuna opera di manutenzione accessoria viene programmata, perché è uno spegnimento to cure, e quindi significa decretarne la morte in maniera irreversibile, perché spegnere tutti gli altri forni e spegnere le batterie significa che la ripartenza dello stabilimento potrebbe avvenire in uno spazio temporale così in là negli anni, parliamo almeno di 5-6 anni, che metterebbero di fatto il produttore fuori dal gioco del mercato. Tra l'altro, dal lato degli investimenti, un forno di questo genere costa tantissimo. Guardi, non ho le cifre esatte, ma siamo su cifre che parliamo di centinaia di milioni di euro, insomma, del rifacimento di un impianto di questa portata. Questa è la dimensione, centinaia di milioni di euro. E si diceva anche, ultima domanda, come dire, sul possibile impatto economico della permanenza del provvedimento di sequestro, nel caso che non dal riesame, insomma, venga confermato appunto il sequestro degli impianti, è l'impatto sul porto di Taranto, che dall'Ilva dipende tantissimo. Il porto di Taranto in questo momento, l'80% delle movimentazioni del porto di Taranto sono di natura industriale. In questo contesto i player principali sul territorio sono tre, il player principale è l'Ilva, seguito da Eni e da Vestas, ma staccati di larga misura, per cui il presidente dell'autorità portuale constatava con me che senza l'Ilva non vi è porto in questo momento. Chiarissimo. Ora io verrei alla questione dell'assemblea che avete tenuto oggi, e vorrei capire da lei che cosa è emerso, insomma, qual è la direzione che state prendendo. Sì, nell'assemblea, oltre alla testimonianza di solidarietà alla famiglia e le Rive e i dirigenti coinvolti in un provvedimento restrittivo in qualità di imprenditori, voglio dire, quindi come Italia noi non possiamo che esprimere solidarietà nei loro confronti, emergevano di fatto una serie di cose all'interno di questa riunione, che oltre ad essere un'assemblea straordinaria aveva contava anche la partecipazione dei parlamentari ionici ed era stata estesa anche alle istituzioni nonché ai sindacati. Alcuni di loro non hanno potuto partecipare perché, per esempio, il sindaco aveva un consiglio comunale monotematico sull'argomento Ilva, i sindacati erano a sedare gli animi dei lavoratori proprio perché si era appresa la notizia degli ispettori che andavano in Ilva. Però diciamo che le istituzioni hanno risposto tutte, anche i parlamentari, ed è emerso sostanzialmente la volontà, anche attraverso sia le dichiarazioni della magistratura che del presidente Ferrante, vista che vi è la volontà di permanere a produrre, di andare incontro alle prescrizioni, noi vogliamo giocarci l'opportunità che viene fuori dal fatto sì che è diventata un caso di carattere nazionale, per far sì che appunto Taranto possa essere la prima realtà industriale del paese meglio ambientalizzata, approfittando di una serie di provvedimenti che noi intenderemmo porre all'attenzione del governo centrale, visto che il sistema paese ha beneficiato di, in qualche modo, del sistema industriale che gravava in termini ambientali sul territorio ionico per oltre un secolo. Noi a questo punto, a titolo di ristoro, richiediamo una serie di provvedimenti, parte dei quali già in essere, quei 336 milioni per le bonifiche relative all'accordo sottoscritto, al protocollo d'intesa sottoscritto il 26 scorso. Noi riteniamo che quello possa essere un primo grande e importante segno di attenzione del governo in un momento in cui il paese è in grande difficoltà, però riteniamo che bisogna procedere sul processo di ambientalizzazione del comparto industriale, che non è soltanto Ilva, ma abbiamo anche altri grandi player sul territorio che scontano una presenza, un impatto ambientale importante. Noi vorremmo che vi fossero da una parte dei provvedimenti legislativi volti ad attenere norme chiare, che sono una delle principali cause di impedimento per la prosecuzione dell'attività produttiva di queste realtà, e poi vorremmo un'attenzione particolare del governo che in qualche modo intervenga sul discorso di bonifiche per far sì che finalmente si possano coniugare ambiente e lavoro in una logica diversa da quella che negli ultimi anni si è portata avanti, un muro contro muro che ha fatto sì che una coscienza deindustrializzante prendesse sempre più corpo. Grazie, ringrazio Vincenzo Cesario, presidente di Confindustria Taranto, per essere stato con noi e averci dato queste indicazioni anche sull'assemblea che avete tenuto e le spiegazioni sull'impianto Ilva. Naturalmente continuiamo a tenere sotto controllo la situazione anche in vista appunto della giornata di venerdì. Grazie Cesario e buonasera. Grazie a voi. Buonasera. A proposito invece di banche e di prestiti, ci dite, continuate a distorcere la realtà, la gente e le imprese fanno la fila per chiedere finanziamenti, ma i direttori respingono le richieste perché queste sono le disposizioni ricevute dalle direzioni generali e no che mancano le richieste. In realtà, come avranno sentito i più attenti, poco fa Moria Longo citava entrambe le questioni. C'è sicuramente un calo della domanda di finanziamenti, ma questo è attestato da praticamente da tutte le istituzioni, e c'è anche una difficoltà a chi richiede credito a vederselo erogare. Insomma, convivono i due elementi. Insomma, quindi chi va in banca a chiedere un finanziamento è abbastanza facile che se lo veda rifiutato, se lo veda a livelli con dei tassi troppo alti, e poi c'è anche un nutrito gruppo di persone che molto semplicemente non ci va. ...17:35 minuti, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Ci dite, a proposito dei finanziamenti delle banche alle imprese, insomma, si diceva si fatica ad ottenere questi finanziamenti, a volte non si ottengono, ci scrivete al 349-238-6666, se si chiama Ligresti ottiene quello che vuole. In effetti un po' di circuito perverso, diciamo così, tra grandi clienti e finanziamenti delle banche, insomma, negli anni c'è stato, l'abbiamo raccontato giusto la settimana scorsa con Fabio Pavesi qua in studio a proposito di quella famosa lettera Mediobanca Ligresti, che poi a quanto pare forse è un falso. Insomma, comunque, anche su questo sono aperte le indagini. Noi adesso andiamo ai mercati. Mercati che chiudono bene, più 2,8 sul FTSE MIB, più 2,8%, più 2,16 sul FTSE All Share, positiva anche il resto d'Europa, con Parigi a guadagnare l'1,24%, Francoforte l'1,27%, giù di poco l'America, il Dow Jones meno 0,14%, il Nasdaq meno 0,42% e lo Standard & Poor's 500 che cede lo 0,25%, euro a 1,2241 contro dollaro. Ceo Condina, Radio Cora, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Naturalmente qua sono le parole di Berlino a pesare. Assolutamente. Assolutamente sì, Berlino almeno a parole si è detta favorevole all'ipotesi che la BCE possa acquistare titoli diciamo dei paesi precari dell'Eurozona, in più anche Geithner e Schauble si sono detti diciamo fiduciosi sul processo di risanamento del vecchio continente, e poi c'è sempre l'attesa per la riunione di giovedì della BCE che potrebbe diciamo segnare quello che potrebbe essere l'agosto dei mercati con eventuali provvedimenti per rafforzare il cordone di sicurezza della zona euro, quindi prima diretta conseguenza un forte rafforzamento delle banche su tutti i listini, più 3,3% lo stocks di settore bancario in Europa, soprattutto a Piazza Affari con tutti i principali diciamo titoli bancari che hanno avuto rialzi molto corposi. Sì, Mediolanum guadagna il 7,84%, bene anche Mediaset oggi, 7,78%, motivi particolari? Cioè, oh. Non particolari, diciamo che si risolleva dai minimi anche perché aveva toccato i minimi storici nelle ultime settimane, un titolo davvero penalizzato anche dopo i numeri sulla pubblicità del primo semestre in calo del 10%. Bene la Popolare di Milano a proposito di banche, più 6,6%, 6,5% guadagna il Monte dei Paschi, Banco Popolare il 6,36%, Mediobanca il 4,9%, Unicredit il 4,6%, Intesa San Paolo più 6,6%. Eh sì, Intesa si allinea agli altri istituti, in più qui c'è l'iter per l'offerta lanciata da Intesa sui propri bond subordinati e senior, fondamentalmente Intesa li ritira dal mercato e li riacquista, l'offerta è andata molto bene e si stima un capital gain lordo, quindi insomma una plusvalenza di circa 150 milioni di euro. Bene anche A2A, quasi 7 punti percentuali di guadagno. La multiutility lombarda si risolleva dai minimi grazie alla cessione della controllata francese Corians, una cessione che porterà a un taglio del debito molto importante, circa 160 milioni, ricordiamo che il debito è il tallone di Achille di A2A che dopo l'acquisto del 50% di Edipower ha sfiorati 5 miliardi di debiti netti, e in più c'è una plusvalenza superiore ai 30 milioni, questi 30 milioni vanno tutti a utile netto. E comunque questi sono tutti effetti che vedremo nel secondo semestre, comunque l'operazione è stata molto apprezzata come abbiamo visto oggi dagli operatori di borsa. A proposito di conti di aziende, c'è Fiat che guadagna un 4,86% e siamo a cavallo di due giornate, cioè oggi ci sono i conti di Chrysler, domani quelli di Fiat. Sì, e dopodomani quelli di Fiat Industrial, quindi diciamo che gli operatori scommettono su questi conti, anche se poi a vedere il valore assoluto del titolo, Fiat oggi è riuscito a tornare sopra 4 euro, quindi diciamo che non sono valori particolarmente alti, nelle ultime sedute il titolo era stato molto penalizzato dai numeri delle immatricolazioni e poi da tutto un settore auto che in Europa è in crisi. Bene, anche Xor un guadagno del 2,62%, Prysmian positiva un 2,4%, ci chiedono notizie di tutta la partita Unipol Fonsai. Le notizie sono tutte nei numeri di borsa perché praticamente i titoli si sono allineati, come si dice in questi casi, ai valori degli aumenti di capitale. Unipol ha perso un altro 13% ed è a 2 euro, Fonsai ha perso un altro 28% ed è a 1 euro. Quindi insomma chi ha comprato queste azioni in passato non sta vivendo giornate particolarmente felici. Felici naturalmente. No. L'unico titolo negativo oggi è Saipem, cioè o meno 1,33. Sì, Saipem oggi ha dato i conti, utile netto primo semestre in crescita dell'8%, confermati i target del 2012, diciamo che fondamentalmente i numeri non sono brutti, però probabilmente non all'altezza di quello che si aspettavano gli analisti o il mercato. Grazie a Ceo Condina di Radio Cor il Sole 24 Ore per averci aggiornato anche su una nuova giornata positiva di borsa. Noi adesso cambiamo argomento e passiamo a parlare della Spending Review. ci correggete spesso, avete ragione, insomma, ogni tanto capita nell'abituarsi da giornalisti a utilizzare quel termine anche all'interno della redazione, se vogliamo qualche volta anche per stanchezza utilizzare questa brutta parola spending review, lo diciamo, sono revisione della spesa. Dunque, il sottosegretario Polillo assicura che entro oggi si chiude al Senato. Questa mattina in aula è venuto meno il numero legale con slittamento dei tempi dell'esame. La Lega dice la maggioranza è irresponsabile. Continuano intanto le polemiche sulle misure, i medici che chiedono basta emendamenti dannosi. Intanto CGIL e UIL confermano lo sciopero degli statali per il 28 settembre. La CISL dice no. Tra l'altro sciopero e però il numero degli esuberi nella pubblica amministrazione si conoscerà a fine ottobre, dice il ministro Patroni Griffi, non prima, lo dice il ministro della pubblica amministrazione. 11.000 sono appunto i sovranumerari nella pubblica amministrazione centrale. Sapremo quanti sono gli esuberi appunto il 31 ottobre 2012, non prima. L'impatto sulla pubblica amministrazione, aggiunge comunque, non è traumatico. L'incontro di oggi aprire un percorso complesso in cui si dovranno da una parte riorganizzare le pubbliche amministrazioni, dall'altra riallocare le risorse umane, cioè il personale in queste pubbliche amministrazioni. È un percorso complesso che non ha nulla di traumatico, abbiamo fatto in modo che l'impatto del ridimensionamento del settore pubblico non avesse conseguenze traumatiche, a differenza di quello che è successo in paesi vicini, come voi sapete bene, e indipendentemente dalle decisioni che assumeranno le organizzazioni sindacali, credo che sia opportuno che in questo percorso, senza forme di consociativismo, ma con un leale, serio esame congiunto delle problematiche che dovremo affrontare, credo sia opportuno che partecipino attivamente anche le organizzazioni sindacali. Così dunque il ministro Patroni Griffi. A proposito dello sciopero CGIL e UIL e non CISL, sentiamo il segretario confederale della CGIL Nicola Nicolosi. Riunioni come quelle di questa mattina hanno il demerito di essere sterili nei fatti, dice. Incontri sindacali come quelli convocati questa mattina hanno un demerito, che sono incontri che nei fatti rischiano di essere sterili, perché nella sostanza sono incontri che alla fin fine le parti, vale per la controparte pubblica ma vale anche per le organizzazioni sindacali, non sono in condizione di apportare nessuna modifica nei fatti a quanto il dibattito sta discutendo in questa giornata. Il secondo aspetto invece della questione che noi abbiamo rivendicato come CGIL, che un minuto dopo l'approvazione di questa legge, ovviamente le parti si dovranno riconvocare per gestire, governare al meglio la legge in discussione. E allora sentiamo le altre voci di questa giornata sulla spending review, iniziando dal segretario confederale della UIL Paolo Pirani, che conferma il giudizio negativo per quelli che definisce tagli lineari. Purtroppo l'incontro di oggi conferma il giudizio che noi avevamo dato rispetto all'atteggiamento del governo sulla spending review e sulla pubblica amministrazione in generale. Non vi è nessuna reale intenzione di confrontarsi con le organizzazioni sindacali, anzi si stanno disattendendo gli accordi che sono stati sottoscritti tra il governo, gli enti locali, le regioni e le organizzazioni dei sindacali il 3 maggio scorso. Si procede con la logica classica dei tagli lineari, nel senso che si colpisce nel mucchio senza portare nessun beneficio in termini di efficienza, efficacia della pubblica amministrazione. È quindi un'operazione che serve solo a far cassa, fare ancora una volta della pubblica amministrazione un bancomat per la tesoreria dello Stato e continuare con le politiche di usare la pubblica amministrazione come greppia per una politica che sempre più appare parassitaria e non è in grado di riformarsi. Diversa la posizione della CISL, come si diceva, il segretario confederale Gianni Baratta. Non parteciperemo allo sciopero, non dichiariamo sciopero perché vogliamo con il ministro affrontare tutti i temi della gestione dell'accordo del 3 maggio e i problemi relativi ai cosiddetti tagli che la spending dovrà realizzare per stabilire un confronto negoziale, e quindi a settembre chiederemo un tavolo negoziale, i primi di settembre, per decidere insieme al governo come gestire questa partita dei lavoratori. Ecco perché non partecipiamo allo sciopero, perché riteniamo che finché c'è un confronto aperto, c'è la possibilità di trattare, il sindacato deve trattare. Ci si dice dell'esubero di personale della pubblica amministrazione, come si mette d'accordo l'esubero di 11.000 persone della pubblica amministrazione con lo slittamento dell'età pensionabile a 67 anni, probabilmente c'è gente che è semplicemente molto vicina a quell'età, sullo scarso coordinamento tra alcune idee che appunto riguardavano le deroghe per gli statali alla riforma delle pensioni. Già in passato ci siamo permessi di esprimerci con qualche dubbio a proposito se siano 11.000 oppure no. Appunto, come dice Padroni Griffi, questo non è ancora chiaro, perché in realtà la riduzione riguarda le cosiddette piante organiche, ossia quante persone, cioè riguarda il numero di quante persone dovrebbero esserci in ciascun ufficio. Quindi quanti complessivamente dovrebbero essere questi dipendenti pubblici? Non riguarda le persone che effettivamente ci sono, perché magari contratti mancanti, persone che non sono state riassunte o sostituite con qualche blocco di turnover. Quindi non è ancora chiaro. Noi, come si diceva, cambiamo argomento, andiamo a chiudere questa puntata di Focus Economia che, vi ricordo ancora una volta, in agosto andrà in onda, come si dice, in forma ridotta, chiudiamo alle 18, insomma subito prima del GR delle 18, parlando di materie prime agricole e in particolare di mais. È un tema che abbiamo affrontato anche nelle settimane scorse. C'è stata negli Stati Uniti la maggiore siccità dal 1956. E questo naturalmente ha un impatto terrificante sui raccolti. E attenzione, per quanto riguarda il mais, siamo ampiamente, non proprio ampiamente, insomma, comunque abbondantemente sopra e stabilmente sopra i livelli del 2008, quando ci fu quella sorta di bolla sulle materie prime agricole che è stata identificata da alcuni appunto anche come causa di alcune delle rivolte che si sono viste nei paesi arabi. Saluto Maurizio Mazziero, fondatore di Mazziero Research, che è azienda che porta il suo nome, che si occupa appunto di consulenza finanziaria, ed è un analista esperto appunto di commodities, ossia di materie prime. Mazziero, buonasera. Buonasera a lei e ai suoi radioascoltatori. Allora, a che punto siamo? Mi sembra che qualche pioggia finalmente negli Stati Uniti sia scesa, però per il raccolto del mais a quanto pare non c'è nulla da fare. Effettivamente le piogge sì, sono arrivate, anzi è probabile che anche la settimana appena iniziata porterà delle altre piogge, però il problema è che forse ormai il danno è stato fatto, nel senso che ci sono dei momenti particolari per il mais in cui c'è necessità di acqua. Se le temperature climatiche sono elevate e c'è poca acqua, il danno è irreversibile. Giusto per farle un esempio, per dare dei numeri tangibili, l'anno scorso intorno a questo periodo il 62% del mais era tra buono ed eccellente e solo l'11% era di qualità povera. Ebbene, qui siamo invece nella statistica che è stata rilasciata per la settimana dal 16 al 22 luglio a 45% molto povero e solo il 26% eccellente. Adesso attendiamo la statistica che arriverà delle condizioni del raccolto, verrà pubblicata tra 4 ore, però credo che ormai il danno sia fatto per quel che riguarda gli Stati Uniti. Danno fatto, e qual è l'impatto di questo danno? Perché poi noi tendiamo a dimenticarcene, no? Ragioniamo di questi prodotti della terra solamente come cibo. In realtà come cibo per noi, come cibo per umani, in realtà le derivazioni sono molte e l'impatto che ci può essere è molto più elevato della semplice, per quanto importante, alimentazione umana. Effettivamente, poi stiamo parlando del mais, che è una materia prima molto versatile. Andiamo più che ancora per l'alimento umano, andiamo per l'alimento zootecnico, quindi gli animali, bovini, suini, il pollame. Dopodiché abbiamo anche altre produzioni, che sono quelle ad esempio dei sacchetti biodegradabili, piuttosto che magari l'etanolo. Negli Stati Uniti viene molto utilizzato come etanolo da miscelare insieme alle benzine. Ecco, tutto questo sta portando a un mix incredibile, perché in prospettiva quello che sta accadendo è che gli allevatori di carni stanno vendendo i loro bovini, in particolare i vitelli, e quindi in questo momento si ha un calo proprio dovuto alla pressione dell'offerta, un calo della carne di vitello, ma in prospettiva ce ne sarà meno perché meno animali verranno posti nella filiera dell'allevamento. Ad esempio, e questo vuol dire automaticamente un aumento dei prezzi anche da quel lato in prospettiva? E in prospettiva sì. Con che tempi secondo lei? Per quel che riguarda il pollame c'è un ciclo che è molto breve, quindi già a 2 mesi. Per quel che riguarda i bovini e i suini potrebbe essere tra i 6 mesi e i 10 mesi, quindi questo. Ma abbiamo già un riscontro ad esempio sullo zucchero. Lo zucchero è anch'esso utilizzato per miscele di etanolo con i carburanti. Si pensava che ce ne sarebbe stato in surplus quest'anno in base alla produzione brasiliana, ebbene lo zucchero sta aumentando. È possibile fare un paragone con quello che abbiamo attraversato, con quella sorta di bolla che abbiamo attraversato nel 2008? Mi scusi Mazziero, per essere molto chiari, ci scrive un ascoltatore, molto, secondo me un po' brutalmente, no? Basta fare irrigazione, son balle per far salire il prezzo. In realtà non è esattamente così, e però un po' di speculazione ci sarà anche qua dentro, immagino. Il problema è che noi tendiamo a definire speculazione quando non ci sono dinamiche complesse e non comprendiamo bene quali sono i vari attori del mercato. La mia personale opinione, è avvallata anche dagli studi che ci sono stati, che si possono trovare, è che certamente nel breve termine ci sono delle speculazioni, ci sono la volatilità aumenta, ma nel medio-lungo termine l'aspetto dei prezzi delle materie prime è esclusivamente affidato a quello che è domanda e offerta. Tant'è vero che poi nel 2008 i prezzi sono scesi alla fine. Sì, effettivamente sono scesi, ma se poi pensiamo ad esempio al petrolio, gran parte era stato anche determinato dal panico da parte dei buyer di non riuscire a trovare petrolio, e quindi si vive di eccessi, esattamente come avviene nei mercati azionari, insomma. Mi sembra chiarissimo, mi sembra anche, Mazziero, molto brevemente, che previsioni non se ne possano fare a questo punto. Ma guardi, il Morgan Stanley ha fatto una previsione di oltre i $10 il bushel. Io non mi sento a mio agio con le previsioni, penso che la situazione effettivamente è in evoluzione, e tra l'altro ci troviamo in un momento in cui c'è la battaglia degli acri sulle future produzioni, i futuri raccolti nell'emisfero australe, quindi è tutta una situazione in completa evoluzione. Grazie a Maurizio Mazziero, fondatore di Mazziero Research, una società di consulenza finanziaria. Grazie a Mauro Del Corno in redazione, Roberto Scaltriti in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione.